troppo al semaforo, scatenate l'inferno. Prima dentro! Prima dentro! Gas a martello! E andiamo! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Infatti, no, gas a martello magari no. 800240024, ma non per altro, non per Blatter e Platini sospesi 2-2 per 90 giorni, quindi la carriera politica di Platini, poi ne parliamo, a questo punto fortemente compromessa. Blatter gli ha segato la sedia, l'ha tirato giù con lui nel fango. No, dicevo, gas a martello magari no, perché mi ha fatto piacere venirmi a trovare Boris Sollazzo con tutto il suo pessimismo cosmico. Buongiorno Carlo. Ciao. Pierluigi Pardo, cosmico o comico? Eccoci. Eccolo. Eccolo, no, era proprio l'istante in cui stavo commutando dal Bluetooth al telefono normale, roba seria. Cosmico è anche un po' comico Sollazzo, a parte che Sollazzo è comico per definizione, scusate questo drammatico gioco di parole, ma no, beh, Boris è il numero uno, che la verità è questa, e quindi sa e conosce tutti i rischi della scaramanzia, secondo me. Sì. Io la voglio interpretare così. Guarda, cioè, è solo scaramanzia. Ma in verità è anche strategia, perché loro si divertono tanto perché sono senza pressioni. Nel momento in cui avranno pressioni, Napoli è una città che può farti passare il sorriso in questo senso, perché ti mette delle pressioni incredibili. Secondo me devono continuare a vivere partita per partita, poi vediamo, insomma. Giusto, io da oggi aderisco all'appello di due o tre ascoltatori ieri che mi hanno detto ti vogliamo bene, quindi siamo già simpatici, però mi hanno detto per favore usare la scaramanzia, una cosa sacra, quindi non dire più quello che stai dicendo, anzi lo dico per l'ultima volta, lo dico per l'ultima volta e poi mi fermo qui per un po', eh? Uh-huh. Il Napoli è la, posso dirlo, Sollazzo? Dai, favorito per lo scudetto, la favorita per lo scudetto. Basta, adesso non lo dico per Giorgio, va bene? Okay. devi vedere De Luca cosa sta facendo. Sì. Io non alzo le mani. Sollazzo non alza le mani. Ragazzi, appunto, 0-0 non lo possiamo mica fare. No, è vero quello che dice Sollazzo, è giustissimo, ed è chiaro che la strada è lastricata di possibili ostacoli e imprevisti, è come il Monopoli, ci sono gli imprevisti, le opportunità, le probabilità impreviste, un sacco di carte da pescare, il mercato a gennaio che arriverà, magari qualcuno si rafforzerà, si dovrà spostare ovviamente anche il Napoli, sembra che abbia tutte le risorse per poterlo fare. E tutti i rischi ambientali ci sono, ovviamente, perché è una piazza meravigliosa, sì, non che Roma sia da meno, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra che è lontana 6 punti dalla testa della classifica, per cui però io oggi stavo il mio euro me lo andrebbe dal Napoli. Intanto, però posso non essere scaramantico e dire che anche non vincere con la Fiorentina non intaccherebbe, secondo me, nessuna probabilità. No, cioè, questa è una squadra che può fare come i passisti, può fare il suo ritmo e vedere poi dove arriva. Certo, anche, ma sarà comunque la partita del sorriso. Sì. Napoli-Fiorentina, la partita da rinascimento del calcio, ecco. sarà una partita di questo tipo, mentre sarà molto più carogna Inter-Juventus. Quella è una partita carognesca. Anche perché quella è un pochino più dentro fuori. Io devo dire, ecco, faccio una previsione. Secondo me il Napoli arriva a un'ottantina di punti. Bisogna vedere se bastano. Ah, magari qualcuno in più. Intanto vedi, c'è vedi come piano si cominciano a sgretolare, sì. Intanto c'è, no, cerco di fare anche il giornalista, però devo dire, vedendola da fuori, senza il tifo, dico che secondo me un'ottantina di punti li prende. Quest'anno potrebbero bastare, poi conoscendo la storia del Napoli probabilmente troveremo una squadra che ne farà uno in più. 81. Esatto, cioè. E io probabilmente non riuscirò a intervenire per il resto della mia vita, però insomma va bene. Intanto c'è la grana Lorenzo il Magnifico Insigne, quello che continuiamo a dire in questo momento più forte giocatore italiano, volevamo vederlo con un altro azzurro, quello della nazionale, ma ha lasciato tutti in Braga di Tera. Se n'è tornato a casa. Ecco, lo poi sapevo. Sapevo che roba. poi proviamo a capire più tardi anche come sono le facce della nazionale in questo momento. Per il momento, aspettando, sentiamo delle voci, a cominciare da questa, che ve la raccomando. Il medico del Napoli, De Nicola, che ha visto Insigne quando è tornato a casa. Io l'ho trovato bene, molto bene. Il ginocchio è in ottime condizioni attualmente, chiaramente saremo un po' cauti nello stabilire il suo programma di recupero. Si è allenato in modo differenziato, ma già si è allenato e siamo molto ottimisti. Non è un ginocchio che ha problemi in questo momento. Tutto a posto, si è allenato, si ginocchia molto bene, tutto a posto, tutto in ordine. Ha fatto anche le flessioni sulle gambe, tranquillamente. Tutto a posto, no, tutto in ordine. E intanto in Azerbaijan non ci va, contro la Norvegia non ci sarà. Posso dire che De Nicola è un genio. Cioè, gran parte dei successi che il Napoli ha avuto in questi anni, da quando è tornato in Serie A, si devono al fatto che uno dei top player il Napoli ce l'ha nello staff medico. Fateci caso, credo che negli ultimi 10 anni il Napoli sia stato tra le squadre che ha avuto meno infortuni muscolari. Questo è verissimo. Detto questo, già nell'era di Mazzarri. Esatto, detto questo, preferisco quando usa le mani che quando usa la bocca, perché diciamo non è abituatissimo a fare interviste. Aiutami a capire. Sta bene, ragazzi, sta benissimo. Sarà nato in modo differenziato. Sono d'accordo con Boris. Sono d'accordo perché questa dichiarazione qui è stata, è venuta all'onestà intellettuale, professionale di un medico che dice quello che vede e non dice cose false. E dall'altra dettata anche dalla voglia di rassicurare l'ambiente sulle condizioni di Insigne in vista di Napoli-Fiorentina, però appunto ha questo dark side, questa altra faccia della medaglia, per cui uno dice vabbè, Balla se sta bene perché è tornato via dal tieni presente, Vier, che il buon De Nicola ha una, come dire, una responsabilità di massa, perché noi ogni volta che vediamo Insigne anche solo magari fare una smorfia di fatica ci preoccupiamo, abbiamo poi un rapporto quasi viscerale con quel giocatore, per cui da quando si è fatto male, siamo terrorizzati da ogni piccolo scontro. Quindi secondo me lui ha pensato devo tranquillizzare il pueblo, devo tranquillizzare una città. Ho capito, chissà come tranquillo Conte invece, che ha pure una responsabilità di massa, è agghiacciante. Secondo me ha perso Berardi e Insigne. Secondo me è andata che si sono parlati, si sono detti quanto avrebbe giocato Insigne, a quel punto hanno detto senti, il versamento c'è, perché Insigne ha un versamento più o meno a settimana da quando ha avuto l'infortunio. E ha detto vabbè, non rischiamo, e magari Insigne ha insistito un po', o forse la società, perché poi tra l'altro io, conoscendo il ragazzo e conoscendo anche il suo procuratore, vi assicuro che è veramente un giocatore che tiene tantissimo la maglia della nazionale. Assolutamente. Questo è chiaro, però la domanda quanto ha giocato Insigne, due partite 180 minuti più recupero eventualmente, questo è quello che avrebbe giocato Insigne, perché non c'è in questo momento un giocatore in Italia in forma e forte come lui. Fermiamoci per il traffico. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Tutti convocati. Purtroppo ci sono stati problemi che il campionato ha le sue fai danni, però è giusto così, è così, bisogna dare il massimo, e quindi i giocatori quando danno il massimo si infortunano, se non si infortunassero vuol dire che camminano. Credo che i sostituti però sono all'altezza. E questo era il presidente federale Carlo Tavecchio, sempre a proposito di Insigne e infortunati vari. Tra l'altro si è fatto male anche Pogba, che si è scavigliato e ha lasciato il ritiro della Francia. Strano che se ne vanno tutti. Manolas che torna dalla Grecia. Siamo in una situazione in cui secondo me le squadre che hanno qualche sicurezza in più, o di essere eliminate o di essere promosse, forse fanno qualche favore in più ai giocatori e alle società. Viene in mente al contrario invece la Bosnia, che farebbe giocare anche i morti viventi, vedi Dzeko, che comunque invece è un grosso rischio per quanto riguarda il metodo in campo. Jovetic, tutto il casino c'è stato intorno a Jovetic, infiltrato. Io ho una proposta. Dillo. Ho una proposta. Innanzitutto la proposta è che tu mi devi fare dei cenni, nel senso che io ho 2-3 assetti di telefono, sì. E d'accordo con De Luca, quando proprio non si capisce niente mi dici cambia e io cambio. Allora, la proposta è questa: fare le qualificazioni europee e mondiali nell'anno dispari, accorpate in un mese a fine stagione, eliminando quelle noiosissime pause che ci sono durante l'anno. D'accordo. Noi a quel punto avremo un campionato che comincia a fine agosto e finisce a quel punto a fine aprile, negli anni dispari, e poi avremo un prodotto televisivamente e come attenzione veramente interessante, perché comunque a sapere che in un mese tu hai le qualificazioni tutte accorpate, con una partita ogni 4 giorni. Perfettamente d'accordo. No, Parlo. Ma che ci vuole? Che ci vuole? Te lo spiego io cosa ci vuole. Anzi, lo chiedo a Paolo Condò, che ringrazio. Ciao Paolo. Ciao Carlo, che ciao Pier. Che ci vuole? Dimmi tu, che ci vuole? Ci vuole uno che decide. Oggi è il giorno in cui hanno mozzato la testa a Platini. Hanno sospeso Blatter per i famosi 3 mesi, le notizie di oggi. C'era questa proposta. Uno dei dirigenti più grandi per 6 anni. Sì, un altro dei possibili candidati, Chu Mon-yu, squalificato per 6 anni. Il comitato etico ha fermato per 3 mesi Blatter e per 3 mesi Platini. Il 26 febbraio ci sono le elezioni. La mia sensazione è che Blatter, l'imperatore, abbia fatto terra bruciata intorno al trono e che adesso tramerà nell'ombra, magari per trovare uno che non sia Platini ma che gli possa essere gradito. Tra l'altro 3 mesi che possono diventare 4 mesi e mezzo, perché automaticamente con gli europei in casa di Platini. Paolo? Sì, da dove cominciamo? Dal fatto che io e Pardo siamo in questo momento i membri più alti rimasti dell'organizzazione calcistica mondiale. Ah, sì, dai, sì. Faccio il tuo delfino, faccio il tuo vice. Facciamo un ticket, Paolo. Facciamo un ticket, dai, che sicuramente almeno più onesti siamo. Facciamo partire l'hashtag Condò Presidente. Sì. No, allora, la proposta che faceva prima Pierluigi, e che ovviamente sono già anni che se ne parla come opportunità, non è mai stata seguita per le difficoltà di mettere a punto un definitivo calendario internazionale. Pensate soltanto alla Coppa d'Africa, che non riescono a metterla in un periodo dell'anno diverso da gennaio e febbraio, che ogni volta che si gioca ci sono pensa a Roma l'anno scorso, che cosa si è persa, certo, quella disputa della Coppa d'Africa, ecco. E poi questa cosa, sì, di far giocare a giugno tutte le partite eliminatorie per i mondiali e per gli europei. E io poi, insomma, ci sono delle nazioni che non possono mancare a mondiali ed europei, e io questo fatto di non dico che le esenterei, però renderei un po' più semplice magari il loro cammino. Poi tu mi dici sì, però è bello per Andorra, Gibilterra e San Marino ospitare l'Inghilterra, la Spagna e così. Dico sì, è bello, però bello certamente, ma qui siamo veramente a botte piena e moglie ubriaca. Pure prendere Andorra, Gibilterra, Faroe, prendere tutte queste piccole che non farebbero queste cose, fargli fare un torneo a loro, che durante l'anno si qualificano e poi vanno questa è la politica però di Platini. Però la politica di Platini è finita oggi insieme a Platini, io credo, Paolo. Beh, intanto non è ancora finito Platini. Non è ancora finito, nel senso che Platini questa mattina ha presentato la sua candidatura. Sì, questo l'ha fatto. Poi però è arrivata la notizia. Sì, però tecnicamente il piede nella porta l'ha messo. La settimana prossima si riunirà con l'UEFA, e la sensazione che hanno le mie fonti è che l'UEFA confermerà il sostegno a Platini, cioè, pur giudicando come minimo naif il modo in cui ha preso quei 2 milioni di franchi svizzeri, la sensazione è che l'UEFA manterrà il suo appoggio a Platini, e quindi è abbastanza probabile che a questo punto sia Platini che Blatter, ovviamente in forme diverse perché i due non si potrebbero odiare di più, ma che i due ricorrano al TAS. Ricordo che se probabilmente possano anche ottenere una sospensione della sospensione. Sì, questo è possibile. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'opinione pubblica Blatter è un uomo completamente bruciato, certo. E tutto quello che può fare è tramare nell'ombra per mettere un delfino. Un uomo di sua fiducia. Certo, Paolo, con la storia che non è poco. Su Platini è diverso. Su Platini, no, volevo finire con questa cosa soltanto. Su Platini è diverso, perché oggettivamente io ti devo dire la mia posizione sincera, poi vorrei sentire anche la vostra, perché è il momento anche di metterci la faccia. Io faccio fatica a immaginarmi Platini Tangentaro, se vi devo dire la verità, per come lo conosco io. Faccio fatica, non c'è dubbio che le circostanze siano tutte contro di lui, non c'è dubbio su questo. Però ecco, insomma, vorrei un supplemento di indagine, perché l'ho sempre considerato una persona onesta, sì. E quindi questa cosa qui mi risulta veramente veramente strana per la tempistica, perché esatto. Chiaro che in questo momento tempistica lo condanna, non c'è nessun dubbio. In questo momento salta fuori il bonifico del 2011. È chiaro che il bonifico salta fuori. Va bene, scusa, sto parlando troppo, dite voi. No, volevo sentire anche Pardo, l'opinione di Pardo. Anch'io faccio fatica a considerare Platini un tangentarlo che prende le stecche, però io la mano sul fuoco non la metto per nessuno. Pardo. A me no, io lo giudico per le principali cose che ha fatto dal punto di vista dell'assetto delle competizioni, e devo dirti che non è che mi piaccia molto il Platini presidente dell'UEFA, nel senso che Platini presidente dell'UEFA è quello che per trovare diciamo dal punto di vista politico suo personale, legittimo per carità, voti in paesi diciamo di seconda e terza fascia, ha per esempio cambiato il metodo di composizione della Champions League, penalizzando le grandi squadre e i grandi paesi con il famoso turno preliminare, in cui praticamente i 10 paesi principali si sfidano e ne passano soltanto 5, e noi italiani purtroppo non abbiamo una buona percentuale, colpa nostra per carità, però quella roba lì francamente poi a me non piace. Poi troviamo l'Astana in Champions League, con tutto l'affetto per l'Astana, e stessa cosa per quanto riguarda il prossimo europeo. Mi sembra ridicolo il format, mi sembra veramente che stiamo esagerando. L'europeo di prima mi piaceva la matti, mi piacerà anche questo, poi a me basta se gioca a pallone, mi piace sempre, però insomma non è che mi faccia impazzire. Un'altra cosa, questo trasferimento ogni anno della Supercoppa in dei paesi esotici molto lontani, non lo so, mi sembrano molte cose alcune cose che non ti piacciono. A me sembra che il problema sia molto simile a quello che sta succedendo al sindaco Marino a Roma, nel senso che Platini politicamente non ha rotto col metodo Evalanche o col metodo Blatter, come diceva giustamente Pierre, è completamente identico la strategia anche di raccolta di voti, quindi politicamente non ha prodotto una diversità tale da poter uscire fuori. E dall'altra, se l'unica cosa, come nel caso di Marino, per cui che lo rendeva diverso era l'onestà, diciamo la pulizia, viene a mancare, il problema è che non cambia, sì, cioè anche lui ha ragione. Con poi, carità, facciamo un supplemento di indagine, perché sono d'accordo, cosa perché io da napoletano, diciamo, Platini non l'ho amato, film, però sembra un film, viene fuori questa cosa nel momento esatto, decisivo della corsa alla presidenza, sembra un po' sembra un complotto, conoscendo Platini. Io ricordo una volta, l'unica volta che mi è capitato di incontrarlo era in un film, Les Arbitres, in cui lui era, c'era anche Rosetti e via dicendo, e lui era lì con i vari arbitri, anche arbitri del passato, e ancora si arrabbiava per il gol che gli avevano annullato in Coppa Intercontinentale, ed era l'atteggiamento di un uomo che ama il calcio molto di più del potere, quindi faccio fatica anch'io a crederlo, però se è successo purtroppo è bruciato anche lui. Sì, purtroppo ma scopriamo. Mano, ma non c'è niente di male, Sì. Uno volendo dalla vita può fare anche altre cose. Detto questo, per carità, c'è una differenza fondamentale fra Platini, Blatter da una parte e Marino dall'altra, è che lì non c'è il suffragio universale. Cioè anche l'ultima elezione di Blatter è arrivata in un momento in cui l'opinione pubblica mondiale, a parte i nostri amici sudafricani, io trovo che una delle cose più belle che abbia fatto Blatter, pazzette a parte, si è stato portare il mondiale in Africa, l'ho vissuto e penso che quello sia un merito assoluto, e chi c'è stato e ha visto quelle facce, sì, ha visto quei visi. Il problema è che adesso l'ha portato in Qatar, non si sa più come fare. Appunto dico che il 99% delle persone voterebbe contro Blatter, eppure l'ultima volta l'hanno ancora eletto, quindi la differenza rispetto a un sindaco è che non c'è il suffragio universale. Sicuro. Votano gli stessi. Facciamo il tiro. Aspettate un attimo, poi continuiamo a parlare, però io devo, prima di salutare Paolo Condò, io volevo fargli un'ultima domanda rapida. Paolo, puoi spiegare in due parole a Boris Sollazzo, che è il capo dei tifosi del Napoli pessimisti, perché lo conosco. Ecco, puoi spiegargli per favore in due parole perché il Napoli può vincere lo scudetto? Perché gioca bene a calcio, alla fine è sempre la cosa che conta di più, almeno secondo me. Gioca bene a calcio e sta riuscendo, uso il termine in progress perché naturalmente stiamo parlando di 2 mesi di campionato e stiamo parlando soprattutto delle ultime 3-4 partite, sta riuscendo a far giocare anche i campioni della sua squadra, a partire da Higuain, come giocavano i ragazzi di Empoli l'anno scorso, perché alla fine la pietra filosofale del calcio che si impone in provincia con un allenatore sconosciuto e poi arriva nelle grandi città, è quella di riuscire a convincere i campioni a farsi il mazzo esattamente come se lo facevano i quasi dilettanti. È una cosa, per esempio, che a Sacchi è riuscita ed è diventato Arrigo Sacchi, ad altri allenatori non è riuscita. Quindi io mi ricordo quando Orrico arrivò all'Inter, Orrico era preceduto da una fama di come giocavano le sue squadre nelle categorie inferiori, ma era straordinaria. Manfredi alla Juventus, non c'era riuscito, insomma, ecco. Zeman ci riuscì alla Lazio, ma poi non riuscì a ripetere le stesse cose a tratti, più avanti. Quindi insomma ci sono Sarri ci sta riuscendo. Sì. E Sarri ci sta riuscendo e quindi se ci riesce porta veramente un raggio di sole dal punto di vista dell'estetica. Se succede quello che sta succedendo, se succede vi invito tutti a cena. Perfetto. Invito preso. Ciao Paolo Condò. Ciao. Ci vediamo settimana a Capri. Altro. Diciamo, pranzo, colazione, pranzo e cena, stai già trattando, ragazzi, devo mandare la borsa, ci sentiamo subito dopo. Adesso è l'appuntamento con la borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, con Boris Lazzo qui con me, Pierluigi Pardo collegato al telefono, rubiamo 2 minuti ad Alessandro Alciato, nostro amico di Sky, che sta seguendo la nazionale. Ciao Ale. Ciao, presente. Buongiorno. Pardo fa piccinini. Eccezionale Alciato. Eccezionale. Senti, ma... dimmi. No, dicevo che mi commuovo ogni volta che lo sento. Andiamo a portocampo. Alessandro Alciato. Eccezionale. Come sono le facce della nazionale? Arrabbiate o no per la questione Insigne? Conte è sereno oppure no? Dopo che il medico del Napoli, abbiamo sentito prima, De Nicola, ha detto no, sta bene ragazzo, c'è niente. Si è già allenato. Beh, quello che stavamo raccontando proprio da ieri da Coversciano, c'è un problema che mi sembra irrisolvibile, che è quello fra... quello che vogliono i club e ciò che invece si aspetta la nazionale. Ne ha vissute due di queste situazioni in questi giorni Antonio Conte, quella di Insigne che sostanzialmente ha ricevuto le pressioni del Napoli per ritornare, esattamente come era successo ai giocatori della Juventus in diversi altri ritiri del passato, avrebbero potuto continuare la loro esperienza in nazionale, invece sono stati richiamati dal club, e questo è successo con Insigne ieri. È successa una cosa diversa e dal mio punto di vista forse un po' più grave con Berardi il primo giorno di ritiro, perché Berardi era il primo giorno di ritiro della sua prima convocazione. Conte in lui credeva moltissimo, l'ha chiamato, Berardi è arrivato con un problema muscolare in ritiro a Coverciano e non se l'è sentita di restare. Lui, senza pressioni della società, in questo caso Sassuolo, ha detto io voglio tornare indietro, voglio tornare al mio club, non mi voglio curare qui a Coverciano. Quindi sono due casi in pochi giorni completamente diversi, ma che dicono una cosa, che la maglia della nazionale, io aggiungo e sottolineo purtroppo, non è più una cosa sacra come dovrebbe essere. Beh Alessandro, nel caso di Berardi aveva già fatto qualcosa del genere, non prendendo la convocazione nel caso dell'Under 19 per giocare gli spareggi. Quindi... Però guarda che la cosa di Berardi è abbastanza impressionante, sono d'accordo con Alessandro, perché tra l'altro insomma forza Sassuolo, scherzando ovviamente, sai, è la radio di Confindustria e diciamo il Sassuolo è simpatico, ma ovviamente è una battuta. No, però con tutto rispetto per il Sassuolo lo dico, che ha anche una classifica importante, ambiziosa, tutto quello che ti pare. Però insomma per Berardi la nazionale A dovrebbe essere arrivo clamoroso, no? Cioè, ma veramente anche con le stampelle, come si dice in cerco. Invece no, e rientra secondo me da un lato nella, forse anche poi nella maturità di un ragazzo che non si sente al massimo e che quindi sa che ci potranno essere altre occasioni, e dall'altro però anche un po' quello che diceva Alci, cioè comunque alla fine la nazionale 20 anni fa o 30 anni fa era una cosa diversa. Se ci può consolare, come dicevamo prima a proposito di Manolasse e Pogba, non è una cosa solo italiana. Motivo in più secondo me per cambiare il calendario e per avere poi a fine stagione tutto il focus strameritato per le nazionali. Le nazionali ci guadagnerebbero da questo discorso qui, e ci guadagnerebbe anche il campionato. Pensate ai sudamericani a quel punto non dovrebbero farsi ogni mese la transoceanica. Secondo me non è un caso che Berardi è uno dei ragazzi classe 90, cioè che sono nati negli anni 90, che è quella generazione che, in cui anche i ragazzi che tifavano la nazionale cominciano a sentirla molto di meno. Cioè dopo Italia 90 la nazionale diventa molto più marginale anche proprio nel cuore degli italiani, e Berardi è già la seconda volta che snobba la nazionale in maniera anche evidente. Non so, con uno come Conte. Ma dove era il 9 luglio 2006? Dov'era? Non era guardando la televisione. Ci avevano invito a casa di amici per andare a vedere la partita, però ha preferito uscire con una, e così ha fatto anche notti. No, ma adesso, veramente. Però è occhio, tornato in tempo per i rigori. Occhio resta a non dare una patente negativa, perché non sappiamo come sta realmente Berardi. Il vantaggio di potersi, cioè può essere anche un gesto di grande maturità, non è per forza secondo me un affronto alla nazionale. Beh, però certo, dire non sto a recuperare a Coverciano, non sto a lavorare a Coverciano, preferisco tornare a casa mia. Alessandro Alciato ha ragione, è curioso. Si è reso conto che comunque stava talmente male che lo visitano e se del caso lo mandano però a casa loro. Però onestamente, no? Fa impressione uno come Romulo oriundo che praticamente rischia la carriera perché si allena per andare al mondiale, e poi con coraggio a quel punto, dopo essersi fatto tutta quella preparazione, dice non vado perché non sono in grado, certo. E Berardi che dice rimandatemi a Sassuolo immediatamente. Alessandro, che dici? Dico che è così, dico che ci vorrebbe più amore per la nazionale, dico anche nel caso di Insigne, ho sentito anche insomma qualcuno che se l'è presa con Insigne, a me sembra il meno colpevole di tutti in questa situazione, perché mettiamoci nei suoi panni, da una parte alla nazionale, al club, cioè Antonio Conte che insomma sarebbe contento se lui rimanesse in nazionale, Conte si arrabbia per 5-6 giorni per la prossima durata del ritiro, dall'altra parte c'è un club che si arrabbierebbe per tutta la stagione con lui, quindi un giocatore magari pensa, non giustifico la situazione ma la capisco totalmente, un giocatore pensa faccio arrabbiare un allenatore che vedo 6 giorni adesso o un allenatore, un club che mi pagano e per cui lavoro sostanzialmente tutto l'anno, e secondo me è proprio sbagliato che un giocatore debba essere portato a pensare una cosa del genere, a fare una valutazione del genere. Però Insigne un allenamento se lo fa almeno, cioè, ma Insigne ha fatto un allenamento, due allenamenti lunedì e poi gli si è gonfiato il ginocchio. Ma Insigne se fosse rimasto, io dico magari non avrebbe giocato, molto probabilmente non avrebbe giocato contro l'Azerbaigian sabato, ma quasi sicuramente avrebbe giocato poi martedì contro la Norvegia a Roma, è comunque una partita ufficiale della nazionale di qualificazione, quindi a me vengono sempre in mente le parole che mi ha detto Andrea Pirlo, che abbiamo messo nella biografia, cioè nella sua biografia, e io l'ho aiutato a scriverla. Lui dice: nessun club si è mai permesso di chiedermi di rinunciare alla nazionale, nessun club mi ha mai fatto pressioni perché sapevano una cosa: io in quel caso avrei trattato male tutti, avrei risposto male, perché una cosa deve essere chiara: la maglia della nazionale viene prima di tutte le altre, e che sia l'altra quella del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Juventus o di qualsiasi club, e lo dice Andrea Pirlo. Quindi, lo dice Alci perché lo sente in generale, certo, ma secondo me dovrebbe essere la regola questa. No, cioè sì, dovrebbe essere la forse regola, sono però troppo romantico, ma no, io penso ma troppo romantico lo conoscendo dico escluso. Scusa, esagerato, è vero. Se questi sono gli amici, Alessandro. Abbiamo abitato insieme, gli ho lasciato, io dico, romanticismo, una macchia sul mio passato. Quindi dice, avete abitato insieme e a te è sempre pesato il fatto che non ti portassi una rosa quando tornavate a casa. Esatto, una cosa perché trovo vergognoso, io stavo lì che cucinavo, non è vero. Non c'era neanche il cibo, situazioni inquietanti, c'era la paese, lasciamo stare, dai. Posso scrivere la biografia di Alciato Pardo? Non so, sì, che dormiva sul materasso in cucina, cioè, abbiamo vissuto anche queste, questo, la maglia di uno del Parma, di Benarrivo, di chi? Di Paolo Cannavaro. Sta diventando porno questa trasmissione. Sono orrendi questi, però. Siamo in fascia protetta, qui tra un po' andiamo. Andiamo su discorsi scabrosi. Se togliamo l'ipocrisia e facciamo una chiacchierata ad amigos, off record, con i direttori dei quotidiani sportivi e con i giornalisti, insomma, tutti ti racconteranno che la PIL della nazionale al di fuori di europeo e mondiale, ai quali poi ovviamente ci devi arrivare, sì. Quindi è ovvio che le partite non è ai massimi, massimi livelli, ma non è solo ai massimi livelli, ma se lo faccio della curva agli ascolti, diciamocelo apertamente, interessa molto poco. Però per il giocatore Pierre, se mi permette, è diverso perché ci deve arrivare a giocare un europeo al mondiale. Sì, mentre certo, noi certo. abbiamo la fortuna di scrivere comunque, di raccontarli comunque quegli eventi, certo, perché certo. A meno insomma che facendo dei disastri in onda, i giocatori se lo devono certo. conquistare. E se non se lo conquistano giocando le partite di qualificazione o comunque dimostrando un attaccamento, diventa tutto più difficile, diventa sì, tutto però, più complicato. Però, ragazzi, però mi fermo, il problema resta stoppo. Sempre quello dei club. Vi stoppo, devo sempre... salutare Alessandro Alciato che tra poco ha un appuntamento televisivo, lo sappiamo, lo salutiamo subito, state qui 800240024, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori a partire da Davide, con cui già mi scuso perché è lì dall'inizio della trasmissione, traffico e poi subito qui. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo con Boris Sollazzo che oggi mi fa compagnia al posto di Pardo, che invece è in viaggio, ce l'abbiamo al telefono. Davide da Pisa, buongiorno. Sì, grazie per la convocazione. Grazie all'attesa, dica. Io sono stravolto, nel senso che Insigne, Berardi, ma chi sono? Io penso a Alessandro Del Piero che si è fatto vagonate di qualificazioni, poi magari ha fallito il gol davanti alla porta alla finale europeo, ma all'europeo ci ha portato lui. Penso ai più grandi calciatori degli ultimi vent'anni in attacco, penso a Vieri, a Ravanelli, a Vialli, Zola, non lo so, aiutatemi, ma ecco. No, ma Totti dopo che ha giocato l'infortunio con l'Empoli. Ha giocato in condizioni molto discutibili, sì, ma io ricordo, fisiche limite. Io ricordo un Casiraghi che si rompe spalle per la nazionale e che piange perché non viene convocato all'europeo. Ravanelli che a Francia 98, se glielo chiedete ancora adesso, non si ricorda la Coppa Campioni vinta, ma si ricorda che non è stato convocato a Francia 98 perché si era fatto male. Già che si è bruciato forse un annetto di carriera nel tentativo di recuperare per un europeo, ma l'elenco è lungo, e comprende non solo giocatori italiani. Beckham attraversava l'oceano a nuoto con gli squali pur di giocare una partita amichevole con la nazionale dei bianchi. Questa nazionale che è poverissima di talento, poverissima di personalità, trova peschi dal cilindro un Bardi o un Insigne che tutto sommato qualche numero ce l'avrebbero anche, e questi la snobbano, non ci mettono mai più piede in nazionale, finiti, bruciati, fine. Conte è un uomo. Questo, ma mi, guarda, sembra Davide, drastico. Davide, posso dire una cosa? Basterebbe che l'ultima parola sia sempre dei medici della nazionale, che si assumono la responsabilità di dire gioca o non gioca. Se il giocatore rifiuta la convocazione o comunque chiede di andare a casa, la prossima grande competizione internazionale, a cui non direbbe mai di no, neanche Zoppo, non la fa. Semplicemente è squalificato per quella stagione, per quella competizione. Non si ha il coraggio di farlo, perché forse c'è la coscienza che molti rinuncerebbero anche all'europeo al mondiale, ma solo così, secondo me, tu costruisci un'identità. Meno di un anno fa, anzi poco più di un anno fa, nel basket, il caso Hackett, famoso, esatto. Torino, sto bene, voglio andare a casa, i medici no, ma perché, puoi stare anche qui, no, sei mesi. Non ce la faccio, vado a casa, squalificato sei mesi, poi riabilitato, poi quest'anno era regolarmente agli europei, peraltro, Pier. Sì, nel basket tu sai più di me, sono stati capi competizioni snobbate o comunque insomma no, non esattamente considerate con lo stesso focus di un campionato NBA o di un campionato, c'è un elemento di fondo molto banale che è quello economico. Alla fine, con la crescita economica del calcio negli ultimi 20 anni, 30 anni, è chiaro che il peso contrattuale, il peso di pressione che hanno le società è aumentato molto. Ma io mi ricordo sempre questa famosa chiacchierata con Conte mentre stava riflettendo sulla proposta che gli era arrivata ormai un anno e mezzo fa, e insomma Conte, uno dei meccanismi importanti che voleva riuscire a costruire era una cultura, un peso politico, una forza della federazione che si rendeva conto che oggettivamente non c'era quando lui allenava i club, e non c'è nemmeno oggi, perché è un meccanismo probabilmente più grande di lui. Quindi io dico, non sono felice di questo, però non mi sorprende, non mi sorprende proprio. Giuseppe Bologna. Ciao, grazie per la convocazione. Niente, volevo parlare di Napoli, anche se prometto sono interista. Quindi comunque sei felice per 4-0 al Milan del Napoli? No, non è questo. Sono felice di aver visto quella partita, perché veramente è stata una grande partita di calcio. Scoperta. Mi sono, mentre guardavo la partita, specialmente quando ha segnato Insigne, che ci sono stati 17 o 18 tocchi, tutti di prima di arrivare al gol, mi chiedevo come si possa parlare dell'Inter da scudetto, cioè lottare per lo scudetto giocando in quel modo, perché a prescindere dalle partite vinte 1-0, della solidità, però... Beh, però Giuseppe, ci sono varie strade per arrivare a Roma. E devo dire che in Italia raramente la squadra che gioca meglio poi vince lo scudetto. Ci sono diverse strade per arrivare a Roma. E l'Inter è andata in fuga vincendo una serie di partite non belle. Io credo che nessun commentatore abbia parlato di un'Inter bella nelle prime 5 giornate, anzi qualche interista si è pure arrabbiato. Ma la verità era esattamente quella, cioè che l'Inter non giocava bene ma era in fuga, e che comunque è un dato importante. Quindi è chiaro che se tu giochi male e vinci, c'è la possibilità che quando comincerai a giocare un po' meglio farai ancora meglio. Però è che secondo me ci sono state più forti dell'Inter. Diciamo certamente che giocano meglio, come ad esempio diciamo Napoli, che quando ha incontrato squadre che avevano fatto più di 10 punti ha fatto male, nel senso che Fiorentina-Inter ha fatto un punto solo, e prima delle grandi tra virgolette aveva battuto solo il Milan, che poi si è dimostrato non essere in grandissima forma. Forse il Napoli è così considerato anche perché ha già incontrato Milan, Juventus e Lazio, e insomma ne ha fatto carne da macello. Però bisogna vedere, dopo 7 partite è davvero troppo poco. Posso chiedere al dottor Sollazzo una cosa su Benitez, nel senso che lui proprio a Radio 24 l'anno scorso ha fatto una discussione dotta e molto interessante sul ruolo che Benitez ha avuto nel processo di specializzazione di un certo tipo di Napoli. Tra l'altro alcuni dei miei amici napoletani, da ovviamente Spagna, da Trieste, allo stesso Boris, sono Raffaelini. Sì. Però adesso questo gioco di Sarri qualche e adesso saranno Sarriti. Il centrocampo a 3, Boris. Abbiamo 40 secondi. Sì, io te l'avevo detto anche lunedì che secondo me con Allan tu potevi giocare anche a 2. Di sicuro il dogmatismo di Benitez ha fatto male. Io dico che Sarri dopo Mazzarri non avrebbe potuto fare questo gioco, e Sarri dopo Benitez l'ha potuto fare. Benitez era necessario, Sarri era necessario prima Mazzarri. Non rinnego il rafaelitismo, che era soprattutto intellettuale. Certo, forse se mi vuoi far dire che sul campo sono più contento che ci sia Maurizio adesso, è così. Ecco, l'ha detto. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao, buon viaggio. Ciao. Tu stai qui, no? Ovvio, mi fai compagnia? No. Non ti abbandono. Abbiamo il GR, torniamo. Saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Che dire, arrieccici. Convocati. Sulla carta è una mazzata, perché sono tre gare una di fila all'altra e quindi è tosta anche fisicamente, anche psicologicamente, però c'è da dire che tutti i piloti sono abituati, perché noi di solito lo facciamo sempre alla fine dell'anno, e sono tre piste bellissime, questa bella, ma Phillip Island, Sepang molto molto belle, quindi comunque quando corri in una pista bella già la fatica è molto meno. E veramente quando sono andato all'ospitale, prima di fare lo rayos X, non so come si chiama, la radiografia, e mi hanno detto che era possibile una operazione. E lì, parlando male, come si diceva in italiano, mi sono... Beep. Un po', no? E allora... Questi sono nell'ordine, li avrete riconosciuti io credo, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo alla vigilia di una della corsa che forse indirizzerà la volata finale, non dico deciderà, ma indirizzerà la volata finale in Giappone a Motegi. Mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao Robby. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi sono qui in studio con un amico comune, Boris, sì. Sollazzo. Grandissimo, grandissimo, lavoriamo insieme, so. il nostro cinema è lui, ciao Boris. Ciao Roberto, un piacere. Ciao. Posso anticipare qualcosa sul prossimo numero di quello che ha fatto Sollazzo? Mi dai il permesso? Assolutamente sì, vai. No, a proposito di motori di grandi corridori, c'è un'intervista a Chad McQueen, figlio di Steve, che racconta il documentario Le Mans, che è la Bibbia di tutti i motorofili, assolutamente. E il tizio è un simpatico pazzo, peggio del padre, se ne esce con. Risposte meravigliose, devo dire. Una delle più belle interviste che io abbia mai fatto. E devo dire che quasi tutte le interviste più belle che ho fatto l'ho fatte per Riders, e questo sì. Non è un caso, secondo me. mi raccontava prima del svolgimento di questa intervista. È stato uno psicodramma. Sono arrivati quasi a mettersi le mani addosso, sì. Poi a piangere insieme abbracciandosi. Sì, capito? Sì, sì, parlando di Steve, abbiamo a un certo punto pianto, poi abbiamo litigato perché lui aveva capito male una domanda, poi ci siamo abbracciati perché ci ricordavamo un corridore di una 12 ore di Daytona che avevamo veramente visto solo io e lui, ma veramente la dimostrazione di quanto. E lui ha due vertebre schiacciate, nel 2006 quasi moriva in un incidente terribile, e ancora adesso, anche lì a Cannes, lui mi ha dato un passaggio perché dovevo andare a intervistare i due registi, e si è fatta la curasetta a 300 all'ora, ecco. Cioè era una cosa mostruosa, come se non avesse il corpo completamente devastato da ferite e via dicendo. È un personaggio clamoroso. Mi sa che Ungaro ne ha conosciuti anche lui un po' di questi, eh? Qualcuno l'ha conosciuto, lui stesso è stato così. È abbastanza frequente. Grandissimo Boris, grazie per questa anteprima. Comunque se deve sentire i tuoi commenti, leggili, è un privilegio da parte mia poi sentirti. Comunque è davvero sì un personaggio lui, non solo per il cognome, perché uno pensa ha quel cognome lì, e invece no, ha una sua storia vera ed è veramente appassionato di motori, quindi scopri una persona che non è la classica celeb o figlio della celeb, vero? Sì sì, assolutamente, grazie. Dimmi. No, dicevo, è interessante perché poi ci sono anche i registi, e uno dei registi è quello che ha fatto la biografia televisiva di Brian Klug, il grande allenatore del Nottingham Forest, del maledetto United, ed è bellissimo come lui racconta che sostanzialmente McQueen e Klug sono fratelli, che hanno lo stesso tipo di follia. Megalomane. Se non sei così, difficilmente diventi un grande. Roberto! Certo. Roberto, senti, ma questo capitombolo sulla spalla maledetta potrebbe essere quel famoso granellino di sabbia di cui tanto spesso abbiamo parlato negli ingranaggi perfetti della testa di Lorenzo? Sì, perché è così, ma pensa poi il paradosso: i piloti rifiutano di andare a fare i test con le gomme Michelin, perché sai che l'anno prossimo saranno Michelin, quindi stanno facendo delle prove, siccome non c'è fiducia sull'anteriore, hanno rifiutano questi test perché vogliono evitare rischi. Poi però si ammalano con le motine, con la bicicletta, vedi Marquez. È incredibile questa cosa, no? E Valentino zitto Sornione nel suo parco giochi, poi no, è vero che può sempre capitare, però alla fine lui arriva bello al 100%, è lì puntuale, i suoi punti da gestire. No, secondo me, allora vedremo solo nelle prime qualifiche la resa di Lorenzo, cioè quanto è al 100% oppure no. Però io dico una cosa, l'importante è che non vada via, perché se va via allora diventa difficile, ma nel corpo a corpo, nella gara dove si studiano, dove c'è pressione, nervosismo e tattica, Valentino lo vedo sicuramente avvantaggiato. Questo da dire. Motegi è la pista Honda, lo sapete che è di proprietà della Honda, è una pista stop and go, favorevole alla Honda. Pedrosa è sempre andato fortissimo lì, vedremo, anche perché è uno stato di forma eccezionale, pareva drogato l'ultima gara. Vedremo come vi si metterà in mezzo e chi aiuterà, Marquez anche lui, però tutti gli occhi puntati sono su quei due blu. E io dico che se non va via Lorenzo ne vedremo altre belle, e la gestione della gara è più a favore di Valentino. Roberto, con Valentino che deve fare per forza il ragioniere, perché quei 14 punti sono comunque però un pochino lo dovrà fare. Secondo me con Pedrosa non si prende il rischio finale, perché sa che sarebbe drammatico perdere anche il terzo posto. E Lorenzo con la spalla, noi rossofili dobbiamo tifare perché vadano più avanti i vari Pedrosa e compagnia, cioè è probabile che possa essere deciso più dagli altri che da loro due. Assolutamente, sì, l'abbiamo detto più volte, l'ago della bilancia alla fine lo era Marquez, perché è quello soprattutto che ha una guida più imprevista, è imprevedibile Marquez, non passa mai nello stesso punto, riesce a passare sia interno che esterno, le sue staccate sono un grosso punto di domanda, fa spesso dei disastri perché fa strike, però è lui, era lui l'ago da bilancio. Poi è risorto dal nulla Dani Pedrosa, anche perché sente il suo contratto che sta per scadere, l'anno prossimo tutti scadranno, quindi interessante vedere il mercato piloti, e pare risorto. Il potenziale di Pedrosa è quello lì, è anomalo che fino adesso non sia mai andato così forte, non ha fatto il suo dovere tra virgolette, questo è. Comunque hai ragione Boris, stanno sicuramente due piloti Honda che determineranno poi il finale di stagione, e l'avevo detto l'altra volta, essere battuti da Valentino è sicuramente molto diverso che essere battuti da un altro pilota, quindi un Marquez, un Pedrosa è diverso avere dietro Valentino o un altro pilota, questo giocherà sicuramente a livello psicologico. Poi Pedrosa, sappiamo tutti, è un magnifico perdente, io non credo che possa ripetere un corpo a corpo come quello contratto onoro. Però quella maturità nel gestire il corpo a corpo, è vero che ripeto c'era un Rossi che rischiava al 98%, però io alla quarta, quinta volta ho detto ora non ce la fa, è la prima volta che l'ho visto, tenere mentalmente per una gara intera. Io addirittura non ho mai avuto la sensazione che Valentino potesse superarlo. Esatto. Ti dico questo. Ma guardate che è stato un signore Valentino, perché un paio di occasioni poteva chiudere la curva, poteva fare il bastardo tra virgolette, e non l'ha fatto per evitare il peggio, e quindi è stato veramente, cioè a livello di testa si è controllato tantissimo, e quindi è lì che vai a vedere il Valentino chi è, che cos'è, perché non gli si è chiusa la vena, non ha reagito, non ha preferito ok stare davanti a lui anche per l'orgoglio di stare davanti a Dani, oltre ai 5 punti, 4 punti che ci sarebbero stati, è stato veramente un grande calcolatore, ma ripeto, a fine stagione questo pagherà, non c'è niente da fare, è dall'inizio che lo diciamo, fatto 360, chiuso il cerchio mettendo i vari aspetti, vale da quel punto di vista lì. Io tu hai anticipato prima qualcosa, noi faremo un numero sui riders dell'anno, e quello che dico io è comunque vada, comunque vale, perché non, cioè vale è stato strepitoso, quindi sì, è lui il rider dell'anno. Ma non c'è comunque dubbio. Vada, cioè lui ha già vinto, ma deve vincere, perché adesso sarebbe un'ingiustizia. Bisogna chiudere il cerchio. Esatto. Adesso bisogna mettere il gatto nel sacco, come direbbe Trapattoni. Che cosa poco motociclista, non c'è nessuno in pista questa cosa. Ma è bene così. Grazie Roby. Grazie Carlo. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Parliamo con un paio di ascoltatori e poi ti provoco. È Montemagno. Il nostro rapporto è sempre così. Tu mi provochi Montemagno. Esatto. Stai attento, aspetta. Enrico Padova, buongiorno. Buongiorno, faccio ancora in tempo a intervenire sui calciatori. Su quello che vuole. Club. Quello, certo. Quello che vuole. Potete intervenire, ragazzi. Regola allora, generale, sì. Numero uno di tutti i convocati, si può dire quello che si vuole in ambito sportivo. Sì. O dintorno. Sì. Prego. Lanciare proclami politici, no. Dipende. No, scherzi a parte, io facevo un discorso, pensavo ai giocatori di un tempo, sì. Pensavo a Gigi Riva, pensavo soprattutto agli stranieri, magari non più che agli italiani, Müller, Beckenbauer eccetera. Voi come ve li immaginate, come ve li ricordate, con la maglia della nazionale o con la maglia del Bayern? Bravissimo, è verissimo, cioè, è verissimo. Una volta c'era le partite la visibilità internazionale una volta era data dalla nazionale. È vero. Anche perché Inter, Real Madrid, Milan, Barcellona veniva ogni 10 anni. Certo. Perché erano le Champions, erano e la UEFA erano e tutte le altre erano eliminazione diretta. È talmente giusto quello che dice l'ascoltatore, che prima valutavamo il fatto che da metà degli anni 90 si perde l'amore per la nazionale, ed è più o meno dalla metà degli anni 90 che ci sono i nomi dietro le magliette delle squadre di club. club, e da lì forse hanno iniziato a non sognare più la maglia della nazionale, ma una maglia con su scritto il proprio nome. Probabilmente, Boris, è anche il sistema, no? Cioè è il, sono i club, l'acqua, è il denaro che portano i club, l'acqua che fa girare il mulino. Sì, vero, River e Beckenbauer non guadagnavano nel Bayern, nel Cagliari, quello che guadagna adesso anche un giocatore medio. Insomma. Esattamente, quindi io credo che dovremmo adattarci a questo segno dei tempi. Poi detto questo, è evidente che Beckenbauer ce lo ricordiamo con la maglietta bianca della Germania. Cruyff con tutte e due, anche con, anche con quella dell'Ajax. Però l'Ajax era un po' una nazionale, un club L'Ajax, nazionale. Era uno state of mind, era qualcosa di diverso. È vero. Alessandro da Alessandria. Buongiorno, grazie per la convocazione. Io volevo portare la mia testimonianza su Sarri. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ho allenato ad Alessandria e vedere giocare l'Alessandria. Allora, lui ha gestito una squadra che non ha preso lo stipendio per un anno, ha gestito un gruppo di giocatori, ha fatto giocare una squadra in maniera spettacolare. Noi abbiamo perso la semifinale di playoff per andare in Serie B con la Salernitana per scarso peso politico. Ma veramente vedere giocare quell'Alessandria era un piacere, e vedere come ha gestito il gruppo era una cosa straordinaria. Io ho detto ai miei amici napoletani: questo vi fa vincere lo scudetto. Adesso lo dico all'8 di ottobre, vedremo, signore, se ho ragione o meno a maggio. Guarda, sei invitato, dice al mio interlocutore Boris Sollazzo. Sei invitato alla cena che offro anche a Genta, Condò e Pardo, se è così. Allora mi prenoto come ospite. Assolutamente, assolutamente. Comunque la testimonianza è una persona straordinaria anche dal punto della gestione del gruppo e della squadra. Sì, ma no, l'incognita era il fatto, e forse è ancora il fatto, che per la prima volta dopo tutta questa enorme gavetta si trova a gestire una squadra da prima. Però anche questi sono stereotipi, perché dice: non ha mai giocato in Europa, so, arriva, gioca in Europa, 7 gol, zero, fa un turnover che nessuno a Napoli è riuscito a fare senza prendere schiaffi. Quindi in verità forse il segreto di Sarri è la semplicità, cioè fa le cose più intelligenti, semplicemente le cose più ovvie, e a quel punto, senza chissà quale alambicchi, riesce a portare a casa quello che gli serve. Allora ti faccio sentire una cosa. Vai. Ma fatto innamorare questa semplicità. A me quando sento dire: ma perché la tuta? Perché non l'abito? Ma facciamola finita con questi abiti che sembrano tutti ridicoli, certo. Con una cravatta che non sanno nemmeno portare. Poi il fatto stesso che, avendo conosciuto Sarri e aver visto che uno che legge, per uno che deve fare i film e che quindi divora con la lettura milioni di pagine per trovare i soggetti, per trovare le idee, per trovare i film, ho detto: ma chi legge di solito non pensa soltanto al calcio, noi dobbiamo avere anche degli sbocchi, perché altrimenti le 250 sigarette che uno si fuma al giorno ci uccidono. Io fumavo come Sarri, a 40 anni avevo deciso di smettere e ho smesso, se no sarei già morto. Adesso devo convincere lui a smettere tra poco. Questa forse è la sfida più difficile. Quindi... Mentre c'è l'ufficialità di Klopp, allenatore del Liverpool, ti regalo questa. Quindi neanche Mazzarri riesce ad arrivare, no. Neanche a Liverpool. Che peccato, che peccato. Con tutto il rispetto per Alciato, no? Il meglio deve ancora venire. Hai sentito? È stata una lapide su carriera di Sarri. Mazzarri. Hai sentito di Mazzarri, sì. Infatti Sarri, non fare biografie. Ci penso io quando hai finito la carriera, con calma, ma non fare biografie durante. No, durante non, esatto. Durante, però insomma, parlavamo di semplicità, no? Abbiamo sentito le parole di Laurentiis, come l'ha dipinto, un grande. Beh, Laurentiis è un artista nel fare questi ritratti. Sì, no, ma lui è fantastico. Tra l'altro, mi faceva molto ridere questa cosa, non la sanno neanche portare la cravatta. Noi, l'immagine di Laurentiis più forte che abbiamo è quella di De Laurentiis col piumino, sì, Porta Fortuna, che proprio non era da Master Eleganciorum, insomma, quindi devo dire che è molto divertente. Poi De Laurentiis è un sentimentale, cioè De Laurentiis si affeziona realmente, la dimostrazione è come tratta gli allenatori che se ne vanno, si sente costantemente tradito, e Mazzarri lo sfotteva dicendo che Benitez era straordinario, adesso Benitez ci manca solo che dice che è un ciccione e l'ha anche detto, perché dice che non gli andavano bene le giacche, esatto, le giacche non gli andavano bene perché le giacche su misura poi non gli facevano allargare le braccia. Però sulla tuta lui ha completamente ragione. Io a me Sarri continua costantemente a ricordare Pesaula, sia nella semplicità con cui metteva i giocatori in campo, pur avendo una grande cultura calcistica. Pesaula non era schiavo dei moduli, faceva 3-4 moduli ed era bellissimo sentirselo raccontare, tra l'altro. Però aveva sempre gli stessi schemi, che è la stessa identica cosa che succede con Sarri. Sarri, quando si dice Sarri ha capito che il 4-3-1-2 non funzionava e ha cambiato col 4-3-3, a Napoli c'è una pletora di giornalisti, sì, che sostiene che Sarri ha sentito loro, in verità lui non cambia il gioco del Napoli, sposta leggermente i giocatori. Sono i dettagli che a questo livello di sofisticazione fanno la differenza. Ma gli schemi, i ritmi e il gioco sono esattamente gli stessi, e in quel senso Pesaula, come te lo ricordi? Ricordi tu, non in giacca e cravatta, te lo ricordi in tuta? C'era un altro che io mi ricordo in tuta normalmente, o comunque con un grosso giubbottone con lo stemma del Napoli. Ti faccio sentire queste due voci e poi tu mi dici una cosa. Ma il giorno era atteso, la cosa, quello che mi ricordo è il dopo quel giorno, dopo quell'ora. È stata un'esplosione spontanea, una manifestazione popolare veramente eccezionale sotto il profilo dell'ironia, sotto il profilo dell'entusiasmo. Ricordo che ero in albergo e il presidente è venuto a prendermi e mi ha portato in giro per i vicoli di Napoli, e vi assicuro che era un teatro vivente. Io devo dire che i momenti di difficoltà sono stati tanti e sul piano personale sono riusciti a superarli. Devo grande parte di merito a mia moglie, ai miei familiari, ai miei figli che mi sono stati vicini. Al resto, che poi è la parte più importante, avete pensato voi ragazzi della squadra, che siete riusciti a mantenere la tranquillità assieme al sottoscritto, di portare in regalo a questa gente meravigliosa di Napoli questa grande gioia. È tutto merito vostro. Mi ha riconosciuti, no? Ottavio Bianchi e l'altro natore da Albertino Bigon. Anche se posso dire senza nulla togliere ad Albertino Bigon, che fu bravissimo a gestire quella stagione, ma quello scudetto è sempre di Bianchi. C'è una vecchia leggenda che racconta di Bigon in ritiro, che vede giocare la squadra il primo giorno che arrivava Maradona, che era arrivato con ritardo, li vede giocare, chiede ai giocatori dove preferite giocare, loro di tutta risposta si mettono a giocare, lui li guarda, se li riguarda e fa: va bene ragazzi, giocate così, non è un problema. E sostanzialmente lui ha fatto quello, però gestisce a livello umano un Napoli che era una polveriera, perché Maradona voleva andare a Marsiglia, perché comunque Careca aveva qualche scontentezza, e lui riesce lì, capisce che come schemi, come moduli, poi tra l'altro avevi Maradona, potevi fare anche l'1-1-8 o l'8-1-1 e andava bene, però capisce che invece li deve gestire a livello emotivo, e lì è bravissimo, devo dire, perché iniziano i primi capricci di Maradona, sì, lui lo gestisce perfettamente. Era una squadra che si stava dissolvendo, sì, cioè, era il momento in cui era più forte, perché il Napoli più forte non è il Napoli che vince i due scudetti, ma è il Napoli che vince la Coppa UEFA. Quello è il Napoli più forte, è un Napoli che decide di non vincere lo scudetto per vincere la Coppa UEFA, che era quasi una Champions League, perché poi il Napoli incontra Bayern Monaco, lo Stoccarda, cioè incontra tante squadre fortissime, e lì Bigon, da vecchio uomo di calcio, capisce che li deve gestire solo emotivamente. Però Bianchi, per me, tra l'altro di Bianchi non si ricorda che lui torna a Napoli, certo, mi pare 94-95, e lì a dimostrazione di quanto gli allenatori alla Bianchi e alla Sarri sono fondamentali. Lui salva il Napoli inventandosi Policano alla sinistra, e Policano segna 7 gol in 9 partite e diventa un giocatore che veramente sembrava, che ne so, Paolo Sergio ai tempi della Roma, una cosa incredibile. Policano dopo non avrebbe fatto più niente. No. E prima non aveva fatto moltissimo. E beh, forse con qualcosina, con un altro di questi insegnanti di calcio, che era Boscov, sì, che lo chiamava Policarpo. Boris, ti ringrazio. È stato sempre un piacere. Piacere nostro. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Sentiamo domani alle 2 dopo l'Europa. È finita! È finita!